Sono le ore 8:51 di giovedì 21 giugno 2018. Mi sto avviando in auto verso questa volta un'altra stazione, quella di Lamaro, per raggiungere Roma in realtà da un altro lato, e mi ritrovo in questo momento sulla Cassia, esattamente a metà tra due grandissimi parchi che sono il Parco di Veio a est e il Parco dell'Insugrata a ovest. Parliamo di parchi perché c'è un po' da commentare quello che sta succedendo a Lolgiata, che è dove abito, e cioè i residenti cominciano a essere molto preoccupati per la moltiplicazione dei cinghiali. E questo francamente è, per quanti danni possano fare i cinghiali, poi magari ne parleremo, è abbastanza incomprensibile, perché significa non sapere dove si vive. Lolgiata è una tenuta trasformata in consorzio residenziale alla fine degli anni 60, stretta tra questi due grandi parchi, il parco appunto dell'Insugrata e di Veio. È un grande tratto, diciamo, di agro romano, e ovviamente riproduce la stessa fauna e la stessa flora dei parchi che la circondano, che è una fauna soprattutto ricchissima, con non solo tanti volatili, usignoli, cornacchie, gazze, falchi, eccetera. Devo dire, è il paradiso per chi ama per esempio ascoltare i suoni degli uccelli, ma anche molta fauna selvatica, con rospi, smeraldini, persino volpi rosse, le abbiamo viste d'inverno, istrici, e anche naturalmente cinghiali, che si sono moltiplicati negli ultimi anni, d'accordo, anche perché sono scomparsi o quasi i predatori dei cinghiali, che sono i lupi, sarebbero, diciamo, i lupi, e si sono moltiplicati anche in città. Roma è una città dove i parchi arrivano davvero fino al centro storico, ci sono grandi zone anche selvatiche, non particolarmente attrezzate, dove si finisce magari una borgata con un altissimo livello di urbanizzazione, poi inizia un grande spazio, per esempio la zona del Parco del Pineto, vicino a Valle Aurelia. Ci sono le zone con dei pascoli, ed è abbastanza normale che in queste zone si possano moltiplicare anche i cinghiali. Quindi, se da un lato capisco lo spavento di chi abita a Valle Aurelia e si ritrova un cinghiale in strada, lo capisco perché non c'è abituato, perché insomma non fa parte dell'esperienza urbana, e lo stesso cinghiale è un animale che magari è un po' spaventato in città perché non sa come ci si comporta, quindi lì posso anche intuire le ragioni delle preoccupazioni. Ma chi vive a Lolgiata e ha scelto di vivere in un posto dove il principale valore sono proprio queste grandi aree di semibrado che distinguono Lolgiata come centro residenziale da zone analoghe come Milano 2, Milano 3, Brugherio, eccetera, deve sapere come ci si comporta con i cinghiali, e quindi di che cosa bisogna preoccuparsi e di che cosa no. La regola, lo ripeto per chi non lo sapesse, è sempre la solita: se capitasse di incontrare un cinghiale, evitare due situazioni. La prima, quella in cui il cinghiale non ha una via d'uscita e quindi di riflesso potrebbe anche attaccare, e chiaramente essendo munito di zanne e di mascelle abbastanza potenti può fare dei danni, inutile negarlo. E la seconda, la madre con i piccoli: non bisogna avvicinarsi, bisogna anzi allontanarsi, e la madre anche ha un istinto difensivo e potrebbe attaccare. In tutte le altre situazioni il cinghiale è un animale assolutamente tranquillo, tra l'altro non salta, quindi se vi capita di scappare basta un muretto alto meno di un metro e non può più farvi nulla. Ci sono anche quelli che si arrampicano sugli alberi, però insomma non tutti sono capaci di farlo. Basta trovare un supporto leggermente alto e il cinghiale non, da quel momento in poi vi ignora. per il resto francamente non capisco le preoccupazioni, perché tra l'altro se il cinghiale si abitua all'idea che l'uomo non è una minaccia, è un animale pacifico alla fine. Tra l'altro sarebbe anche un'idea sbagliata, perché in realtà l'uomo, me compreso, pensa al cinghiale soprattutto come condimento per la pappardella e quindi sarebbe persino legittimo se ci attaccasse sempre, perché siamo diventati noi veri predatori ormai. Però insomma, per tutto il resto secondo me c'è scarsissima cultura nel rapporto con la natura, soprattutto in una città che secondo me ha proprio davvero come valore unico il fatto che in questo grandissimo territorio c'è una porzione di cemento molto bassa in rapporto appunto all'ampiezza, ed è anche per questo che a Roma non c'è l'inquinamento che c'è a Milano, perché ci sono questi grandissimi polmoni verdi, e poi c'è anche il mare vicino che chiaramente gioca un ruolo non indifferente. Visto che è un valore, magari difendiamolo invece di averne paura.